Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 3 giugno, Italia in controluce, il racconto, la narrazione e l'inchiesta sui piccoli grandi fatti della cronaca italiana. Buongiorno da Daniele Biacchesi. 2 giugno, festa della Repubblica. Qual è il significato di questa giornata? Gli italiani la sentono propria, credono all'unità del paese. Il reportage di Elisabetta Fiorito. Sopravvengono giorni di lotta con l'approssimarsi referendum istituzionale del 2 giugno. È uscita la nuova forma istituzionale e i magistrati della Suprema Corte di Cassazione pare legano l'epicedio della neonata Repubblica Italiana. La guerra civile non ci sarà, ha detto il re. Meglio l'esilio che spargere sangue italiano. 2 giugno 1946, l'Italia vota il referendum che la trasformerà in Repubblica. A quasi 150 anni dall'unità della nazione proclamata nel febbraio 1861, nel 2010 è una mattinata soleggiata ai Fori Imperiali, dove si svolge la tradizionale parata militare. La folla corre da tutto il paese, molte le persone che si fermano ad ammirare le frecce tricolori, che applaudono i bersaglieri e i granatieri di Sardegna. Sul palco d'onore ci sono tutti, il Presidente della Repubblica e il Premier Silvio Berlusconi. Mancano però i ministri della Lega, ma tra la folla nessuno sembra accorgersene. Questo non lo so, questo non l'ho visto. Nessun ministro leghista? Abbiamo visto. No, questo non l'ho notato effettivamente da qui, comunque... credo che ormai siamo arrivati al limite. E a proposito di Lega, basta qualche piccola domanda per scoprire che gli italiani sembrano non aver ben compreso il famoso federalismo demaniale, quello che trasferisce i beni dallo Stato agli enti locali. Il federalismo demaniale fa dei condoni sul demanio, del demanio, una cosa del genere? Sinceramente ho capito poco, ma va bene, e che con la speranza però che io venga dall'Abruzzo. Dal Veneto. Sei favorevole al federalismo demaniale? No, non lo so, che mi interessa come di politica. Ma l'ha capito che cos'è? No, non lo so, non mi interessa il problema. E il federalismo fiscale? Quello sì. Io ho capito solamente una cosa, che si vuole un po' dividere le due Italie, sud e nord. Da Verona, io sono leghista, però non sono d'accordo su certe cose. L'Italia è l'Italia, il federalismo... viene fatto solamente perché si vedono troppi sprechi in Italia. Sarebbe una buona cosa se fosse attuata effettivamente, seriamente, ma io temo che vada a scapito di alcune regioni e a favore di altre che sono particolarmente industrializzate. Io ho la visione che vivo al sud, so come si vive e qualche volta sono andato al nord, so come vivono in nord, perciò il nord guadagna. E sud paga le tasse. Ma oltre ad essere il 64esimo anno della Repubblica e quasi il 150esimo dell'Unità d'Italia, è anche il secondo della crisi finanziaria ed economica peggiore dal dopoguerra ad oggi, quello in cui i vertici dello Stato chiedono agli italiani di fare sacrifici. Mi sento italiana, anche se ho molta rabbia come italiana, per tante cose, compresa la manovra fiscale appena pubblicata ieri. È giusto fare questa parata con i tagli, i sacrifici che ci chiedono? Certo che è giusto. I sacrifici si possono fare anche da altre parti, sembrano gli stessi organi, diciamo, quindi ministeriale dello Stato, non c'è bisogno per forza di tagliare questa manifestazione. Io mi sento italiana, sì, mi sento italiana e sono anche orgogliosa, sebbene la nostra classe politica ci sta facendo scadere sia da un punto di vista interno che internazionale. Sono i soliti sacrifici che si richiedono alle solite persone. Sono i sacrifici, li facciamo, li faremo, non c'è problema. Mi fa rabbia perché incide sostanzialmente sempre e solitamente sulle stesse persone, la categoria dei pubblici dipendenti, definiti fannulloni, categoria nella quale non mi riconosco minimamente perché non sono una fannullona. Le celebrazioni per l'unità nazionale si sono appena aperte, molte restano le divergenze. Il ministro degli interni Roberto Maroni che diserta la parata e preferisce andare a Varese in una celebrazione dove si suona la gatta di Gino Paoli. Ma Ma che memoria hanno gli italiani di Mazzini, Cavour e Garibaldi? Chi sceglierebbero gli italiani come eroe tra i tre risorgimentali? Mazzini, Garibaldi per il suo impeto, Mazzini perché l'idea dell'Italia intesa come unità. Cavour, perché è stato un grande riformista. Mazzini, Giuseppe Mazzini. Piace, perché sì. Abbastanza, sì, come figura storica mi è sempre piaciuta di più, anche Garibaldi per carità. E Garibaldi, perché è il personaggio che ha combattuto tanto per unificare l'Italia e adesso qualcuno la vuole rividere nuovamente. Garibaldi. Perché? Garibaldi. A me piaceva Cavour, ma perché mi sento più vicino alla sua corrente politica. Gli altri erano troppo di sinistra. Ma lei è più contento di essere una repubblica o forse rivorrebbe il ritorno del re? No, per l'amore di Dio, repubblica e democratica, per l'amore di Dio. Berlusconi, lo so, però io Berlusconi. La parata è finita, i bersaglieri corrono via, quelli che nel 1870 aprirono la breccia di Porta Pia e completarono l'unità d'Italia, liberando Roma dal Papa Re. Italia in controluce. Vinicio Capossela, Paolo Rossi, due modi diversi di narrare le storie. Vinicio Capossela in particolare ha trasformato le modalità di raccontare attraverso la canzone. Lo ha intervistato per Italia in controluce Matteo Finco. Vinicio Capossela, cantautore, scrittore, artista eclettico, ha presentato il libro La commedia è finita di Paolo Rossi con Carolina della Calle Casanova, edizioni Eleutera. Ci parla del suo rapporto con Paolo Rossi, un sodalizio che dura da molto tempo. Si finisce mai di imparare fra due persone che si conoscono da così tanto tempo? Beh, prima si imparano cose, si impara per esempio a conoscere Jarry, a scrivere un pezzo che non avresti scritto se non te l'avessero commissionato, oppure regole così che riguardano il palcoscenico, ma poi con gli anni si impara invece di più riguardo ai destini, a cosa la vita riserva alle persone che conosci da molto tempo. Questo secondo me è l'insegnamento più. Nel caso di Paolo Rossi, tenersi a tiro così di vita è un po' così, indagare i destini delle persone anche speciali, insomma. È un po' come quando uno fa gli investimenti, no? Sul momento la borsa ha perso 4 punti, ma uno deve calcolare da quando è partito l'investimento, no? Allora ha un quadro così della vita e vede succedersi le stagioni, i picchi, le cadute. È questo che alla fine costituisce forse l'insegnamento più prezioso, quello che soltanto il conoscere da lungo tempo i cammini delle persone ci può dare, insomma. Le occasioni sono punti a sé stanti. Nel mio caso ho cercato di scrivere delle canzoni che fornissero degli episodi musicali ai suoi spettacoli, no? Quindi non soltanto un interplay, un sottofondo, ma qualcosa che andava a integrarsi, e questo mi ha dato la possibilità di scrivere pezzi che altrimenti non avrei scritto. Io ho collaborato a 3 spettacoli, Popper e Belot, Milanin Milanon e Il Circo. L'ultima cosa che ho fatto invece è stato chiedere a Paolo di interpretare un personaggio di una fiaba di Natale che abbiamo registrato per la radio, appunto, per lo scorso Natale. E quindi per una volta sono stato io a chiedere un'interpretazione nel suo campo, no? Quindi ci si ricambia un po' i favori, diciamo. Una cosa che ho imparato, insomma, è questa concezione del padroneggiare un mestiere. Diverse volte mi ha detto: comunque vadano le cose, almeno un mestiere ce l'ho, cioè so fare un mestiere. Questo mi rendo conto di avere la padronanza di un mestiere. Oggi si parla di crisi finanziaria e soprattutto forse anche culturale. Capossela nella sua attività artistica è influenzato anche da questo, dalla crisi? Nessuno è fuori dal mondo, dal contesto storico in cui si trova, oggettivo, no? Quindi questo non significa necessariamente fare di questo il soggetto della propria opera, però questo entra di sicuro nell'aria che respiriamo. Ho fatto un disco che si chiama Da Solo, che è molto ispirato a un periodo anche e a un certo tipo di musica che ha avuto proprio il suo momento nella famosa crisi, no? del 29. Quella fu una crisi che da un lato ha mietuto molte vittime, però ha anche fatto scrivere a Woody Guthrie le cose che ha scritto, oppure a Faulkner, oppure ci sono delle pagine straordinarie, no? Quindi in realtà i momenti di crisi non sono fatti soltanto per avere paura, ma anche per sentire proprio di doversi giocare le carte in maniera più pericolosa. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. L'archivio di tutte le puntate www.radio24.it, il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Nuove storie, nuove narrazioni e nuove inchieste domani alle 6:30 su Radio 24.